Vorrei dire qualcosa sull'inno italiano di Mameli Novaro, cantato dalla Pausini, che ho visto poco fa. Questa interpretazione è stata completamente sbagliata, non perché Laura Pausini abbia cantato male, tutt'altro. Ha cantato molto bene, molto intonata, con il suo stile. Ha ben rappresentato la musicalità italiana odierna. A lei faccio i miei complimenti, anche perché è molto difficile davanti a un grande evento di questo tipo essere così impeccabili. Ha dimostrato un grande livello, ma su questo non c'è alcun dubbio. Il problema è aver trasformato quel brano in qualcosa di assolutamente non italiano, averlo modificato a tal punto da renderlo irriconoscibile, deformato. Sembrava più musica adatta a un contesto Disney. Noi italiani abbiamo una grande storia di musica che raggiunge il picco del suo successo con Giuseppe Verdi, Puccini, un po' prima con Donizetti. È quello il momento che rappresenta l'italianità nel mondo, quello che si chiama la musica occidentale tonale, l'armonia tonale. In quello l'Italia ha un importantissimo ruolo, tant'è vero che il grande musicista Robert Schumann, nelle 100 regole di vita musicale, dice che qualsiasi musicista deve per forza conoscere i compositori italiani, perché è uno dei fondamenti. La storia della musica italiana, che parte da molto lontano, dall'invenzione della notazione musicale, ed è per questo che la musica in tutto il mondo ha ancora la terminologia italiana: adagio, rallentato, glissando, legato, tempo, maestro, orchestra, cello, presto, fortissimo, pianissimo. Sono tutti termini italiani, perché la musica appartiene alla cultura italiana. Allora, quando noi dobbiamo fare un inno con il tutto il mondo che ci guarda, bisognerebbe appropriarsi dell'italianità e non fare quelli senza carattere, senza personalità, perché noi italiani siamo oggi in una condizione di sofferenza dal punto di vista musicale, proprio perché non ci viene riconosciuto quel ruolo, altro che sovranità. Siamo leader dal punto di vista dell'invenzione musicale, e quando parlo di musica parlo di arrangiamento, di armonia, di struttura, della costruzione della musica. Quando un'orchestra suona un repertorio, non è che si può modernizzare a caso. Va bene rimodernare, ma farlo nella logica dell'essenza della musicalità italiana, che è fatta di accordi, di suoni, di timbri, dinamiche, di vuoti pieni. C'è un modo di orchestrare l'italiana che non è quello alla Walt Disney, che non è alla John Williams dei film di fantascienza. Al limite è quello di Morricone. Se proprio vogliamo un'americanizzazione, la musica di Morricone è una musica americanizzata, ma italiana. Lo è la musica di Pino Donaggio, altro grande compositore da film. Oggi, secondo me, è stato svuotato di italianità un simbolo dell'Ottocento italiano, che ha un arrangiamento, ha un'armonia precise. Reinventarlo l'ha portato in una direzione del tutto non italiana. Quindi oggi non abbiamo affermato cosa significa essere italiani da un punto di vista musicale. Abbiamo scimmiottato una cosa che non ci appartiene, e questo avviene nell'ambito di tutta la cultura italiana, che stenta ad avere un carattere, una forza sua. Problema che i politici non capiscono, perché sono approssimativi, superficiali. Per colpa loro, la cultura italiana non riesce ad avere una voce. Questo è il mio umile parere da persona che si occupa di musica e che parla al vento. Buonasera. Vorrei dire qualcosa sull'inno italiano.